Wish 107.5. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Ricordarci che stars go out each night e l'terna stella sa. Oh, nella mia preghiera let this be a prayer when the fede c'è. When shadows feel to advise, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia di in waters from above, di uno trovi amore. We hope it so we'll find intorno e dentro sa another soul to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child. Just like every child. To find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Il affare che hai atteso in noi.